Ad alta voce. Le metamorfosi di Ovidio, tradotte e lette da Vittorio Sermonti. Libro terzo, versi 316-510. Dal corpo di Semele, Giove ha estratto Bacco, il bambino concepito con lei, e se lo è cucito in una coscia per completare l'incubazione. Poi lo ha affidato alle cure di ninfe indiane. Mentre in terra il destino manda avanti le cose così, e la culla di Bacco, nato due volte, è fuori pericolo, si racconta che Giove, svanito dal nettare, accantonasse i problemi seri svagandosi a discutere con una fatua giunone di futilità. Non c'è dubbio, voi altre provate molto più piacere di quanto non ne proviamo noi maschi. Lei nega. Decidono allora di rimettersi all'arbitrato del dotto Tiresia, esperto in entrambi i tipi d'amore. Infatti un giorno, in un verde boschetto con una legnata, aveva interrotto la copula di due grossi serpenti. Allora, da uomo che era, incredibile, si ritrovò donna, e donna restò 7 anni. L'ottavo rivide gli stessi serpenti, siccome le legnate che vi si danno sono efficaci al punto di cambiare di sesso, disse: chi ve le dà, ve ne do adesso un'altra. Lo fece e riprese la forma di prima, il sesso d'origine, insomma. Scelto stavolta per arbitro di quella buffa vertenza, dà ragione a Giove. Giunone se la prende a male, raccontano, in modo sproporzionato all'argomento, e condanna gli occhi del povero giudice alla notte eterna. Ma il padre onnipotente, dato che nessun dio può annullare l'operato d'un altro, in cambio della luce perduta, onore che allevia la pena, la visione gli dà del futuro. E quello, ormai famosissimo nelle città di Beozia, va erogando a chi glieli chieda responsi incontrovertibili. La prima a verificarne la validità degli oracoli fu Lirio Pelazzurra, che un giorno il Cefiso intrappola dentro il suo corso tortuoso e, tenendola stretta nell'acqua, la violenta. Alla bellissima ninfa si gonfia la pancia e partorisce un bambino già pronto per essere amato. Lo chiama Narciso. Interpellato se il piccolo fosse destinato ai tempi lunghi d'una fiorente vecchiaia, il vaticinante, purché non incontri se stesso, rispose. Per anni sembraron parole al vento, le confermeranno il corso dei fatti, una strana morte, un delirio incredibile. Basta. Il figlio del Cefiso ha 16 anni e potrebbe passare per un ragazzino come per un ragazzo. Lo concupiscono molti giovani e molte fanciulle, ma in così tenere forme la superbia è così dura che lui non si lascia toccare né da giovani né da fanciulle. Lo adocchia, che spinge verso le reti, cervi spauriti, eco, lei che non sa tacere se uno le parla, né parlare per prima, la ninfa fatta di voce. A quei tempi aveva però anche un corpo, per quanto l'uso di quella voce pettegola non fosse diverso da adesso, limitandosi a restituire di molte parole le ultime. Idea di Giunone. Quando era lì lì per sorprendere il suo Giove in montagna nell'atto di mettere sotto una ninfa, con gran chiacchiere quella si applicava ad intrattenere la Saturnia, e la ninfa spariva. La dea finì per accorgersene. «Questa lingua che mi ha preso in giro ormai ti servirà a poco», le disse. «Tu avrai un minimo uso di voce». La minaccia si avvera. Così lei replica giusto la coda delle parole che sente, riproducendone il suono. Quando vede Narciso che solitario si aggira per la campagna, avvampa e lo tallona furtiva. E più gli è a ridosso, più divampa la fiamma. Lo zolfo vivo che unge in punta le fiaccole non fa prima a prendere fuoco al contatto con una fiammella. Quante volte vorrebbe abbordarlo con qualche frase insinuante e intenerirlo di suppliche. Natura si oppone, impedendole di attaccare un discorso, pur senza impedirle di cogliere la fine d'una sequenza di suoni e restituirla in parole. Una volta che il giovane si era perduto i compagni e chiedeva «C'è mica qualcuno? Qualcuno?» Eco risponde, e lui, sbalordito, gira gli occhi da tutte le parti gridando «Dai, vieni!» E lei richiama la stessa chiamata di lui. Lui si volta e, non vedendo nessuno, domanda «Perché mi sfuggi?» E risente alla lettera quello che ha detto, ma insiste frastornato da quella voce che riproduce la sua. «Forza, riuniamoci!» dice. E a nulla potendo rispondere che le piacesse di più, «Uniamoci!» Ecco risponde, e dalle proprie parole, come sedotta, sbuca dal bosco e fa per gettare le braccia a quell'ambitissimo collo. Lui scappa e, scappando, le dice «Metti giù quelle mani, preferirei morire che fare l'amore con te». E lei ripete soltanto «Fare l'amore con te». Umiliata, ripara dentro la foresta e nasconde nel verde la sua vergogna. Da allora non vive che in antri deserti. L'amore però non molla, il rifiuto lo pianta più a fondo, l'agitazione e l'insonnia consumano il povero corpo, smagrisce, la pelle si screpola ed ogni umore le evapora. Ecco è ridotta a voce e ossa, la voce rimane com'era, le ossa si dice siano diventate di sasso. Ora sta nascosta nei boschi, sui monti nessuno la vede, ma tutti la sentono, suono. Di lei non vive che il suono. Lui, così come lei, aveva già irriso altre ninfe nate nell'acqua o sui monti e frotte di giovanotti. Finché un giovane bistrattato, levando le braccia al cielo, che ami anche lui, che anche lui non possa godersi chi ama, prega. E Nemesi, dea di Ramnunte, esaudì la legittima istanza. C'era una fonte purissima, argentata di trasparenza. Non un pastore, non una pecorella al pascolo, non altro bestiame l'aveva mai sfiorata, non un uccello l'aveva smossa, o una belva, o il ramo caduto da un albero. Tutto intorno era un prato rigoglioso d'umidità e un bosco che non si prestava ai tepori d'un raggio di sole. Ecco il ragazzo, spossato dalla caccia e dall'afa, gettarsi nell'incanto di quel posticino e di quella sorgente, Bocconi. Ma mentre vorrebbe sedare la sete, altra sete gli cresce. Lui beve e, sedotto da quella bellezza che vede riflessa, si innamora d'una speranza senza corpo. Corpo gli sembra l'acqua. È pazzo di sé. Immobile fissa il suo viso, immobile come una statua scolpita nel marmo di Paro. Bocconi sul prato contempla le due stelle dei propri occhi e i capelli che piacerebbero a Bacco se non ad Apollo, le guance da adolescente, il collo d'avorio, la splendida bocca, il rossore che con la neve del viso si mescola. Insomma, stupisce di tutto quel che lo rende stupendo. Ignaro è sé che desidera, e ammirandolo ammira se stesso, e nell'attrarre è l'attratto, e accende e brucia ad un tempo. Quanti baci perduti a quella fonte bugiarda! Quante volte tuffa le braccia nell'acqua per stringere al collo il collo che vede, ma nulla stringe nell'acqua, non sa chi veda, ma chi sta vedendo lo sta consumando d'amore, e la stessa illusione che inganna i suoi occhi li provoca. Sciocco, che annaspi a fare dietro immagini fuggitive. Chi desideri non esiste. Chi ami ti volti e lo perdi. Il fantasma che stai contemplando non è che un riflesso. In sé non c'è. Arriva con te si ferma, con te se ne andrà. Semmai riuscirai ad andartene tu. Tuttavia, né un pezzo di pane e nemmeno il bisogno di sonno lo smuovono più di lì. Sdraiato all'ombra sull'erba, osserva insaziabilmente quella bellezza illusoria e muore dei propri occhi. Poi, sollevatosi appena, tende le braccia alle selve che lo circondano e dice: «Chi, selve, chi mai ha amato più crudelmente di me? A tanti avete prestato rifugio, dovreste saperlo. Chi? Ricordate qualcuno il quale, nel corso dei secoli che vi è successo di vivere, si sia ridotto così? Mi piace e lo vedo, ma quello che vedo è che mi piace, non lo riesco a raggiungere. Così mi frastorna l'amore. E tanto più soffro che non ci separa il mare infinito, un lungo cammino, montagne, mura con porte sbarrate, ci separa un po' d'acqua. Lui stesso smania ad esser preso, se non c'è volta ch'io mi sporgo all'ingiù per baciarlo nell'acqua, che lui non cerchi di sporgersi all'insù per offrirmi la bocca. Diresti che io possa toccarlo, è un niente a interporsi fra noi. Chiunque tu sia, vieni fuori. Che scherzi mi fai, mio unicissimo? Dove scappi? No, non saranno di certo l'aspetto o l'età a metterti in fuga. Non sai le ninfe che ho fatto impazzire. Quella tua faccia da amico, non so, mi promette qualcosa. Se ti tendo le braccia, che fai? Mi tendi le braccia anche tu? Sorrido, sorridi. Ho notato tante volte che le mie lacrime le stai piangendo anche tu, che rispondi con cenni ai miei cenni, che per quanto io riesca a captare dal moto delle tue labbra, tu mi ripeti parole che l'orecchio non coglie però. Ma questo tu, non ci casco. È un riflesso. Tu sono io. Accendo, infatuato di me, il fuoco che mi consuma. Che faccio? Prego, mi faccio pregare. E per chiedere che? Desidero quello che ho già. Sventurato per troppa fortuna. Ah, se potessi staccarmi da questo mio corpo, incredibile per uno che ama sperare che quello che ami sparisca. Lo strazio mi toglie le forze e non mi avanza più molto da vivere. Mi sto spegnendo, lo sento, nel fiore degli anni. Ma morire non è una tragedia se mi salva da questa tortura. Vorrei solo che lui, l'oggetto del mio amore, vivesse di più. No, moriremo insieme. Due cuori in un'anima sola. Dice e torna a incantarsi insensato della sua faccia e turba l'acqua di lacrime, tanto che si confonde nello specchio del lago l'immagine. E lui, nel vederla svanire, dove scappi? Sta qui, canaglia, non mi lasciare. Me che ti amo, grida. Non posso toccarti, d'accordo, ma lascia ch'io almeno ti guardi. E che nutra questa mia triste pazzia. E nel lamentarsi si apre il vestito da sopra ed il petto si tempesta con le sue mani bianche d'un bianco di marmo. Colpito, il petto si tinge d'un suo rossore di rosa, come succede alle mele che, candide da una parte, dall'altra rosseggiano un po', o capita ai grappoli d'uva di macchiarsi di porpora, se non del tutto maturi. A vedere quel rosso nell'acqua tornata limpida e liscia, non resiste più, ma come la cera dorata si strugge a una fiamma leggera o si strugge a un tiepido sole la brina dell'alba, così, spossato d'amore, Narciso si squaglia e piano piano si lascia smangiare da un fuoco segreto. No, non son più i colori, un misto di candido e rosso, svanite prestanza e grazia, così belle un dì da vedere, non c'è più il corpo che un tempo, ecco, aveva adorato. E anche se risentita al ricordo, appena lo vide, il cuore le si strinse, e tutte le volte che il poverino diceva «aiuto», la voce di lei riverberava un aiuto, e quando con le sue mani si massacrava le braccia, lei gli rendeva identico il tonfo delle percosse. Lui, specchiandosi ancora una volta nell'acqua, balbetta quest'ultime parole «ragazzo, ragazzo», amato invano, e la valle gliele rende esatte. Addio, mormora, ed eco rimormora, addio. Lui lascia crollare la testa stanca sul prato. La morte chiude quegli occhi stregati dal proprio padrone. E anche una volta arrivato all'inferno, continua a specchiarsi nell'acqua di Stige. Quanto piangon le naiadi che si son tagliati i capelli per dedicarli al fratello, quanto le driadi, e a loro eco rimanda i singhiozzi. Già preparano feretro e rogo, già scuoton le fiaccole, ma il corpo non c'è, ed invece del corpo trovano un fiore color zafferano con una corona di petali bianchi.